se ti fa credere quel che non è, quel che non è, il tuo pensiero è lusinghiero, è lusinghiero. Se ti fa credere, se ti fa credere quel che non è, è lusinghiero, è lusinghiero. Se ti fa credere quel che non è. L'alto splendore è un onore, non si racquista se fa un re. Non si racquista l'alto splendore, non si racquista, no, no, se fa. Quel che